nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 29 settembre, il sole in regione sorto alle 7.03, tramonterà alle 18.52, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Anche l'agricoltura, essendo integrata nell'ambiente, non è indenne dai cambiamenti climatici, cambiamenti che cominciano a farsi sentire anche nella nostra regione, con minor piovosità e temperature medie più alte che condizioneranno sempre più le scelte varietali e non solo. È questo l'argomento di apertura della puntata a cui seguirà l'aggiornamento dei dati sull'incidenza del biologico in Italia e nella nostra regione. Per l'universo vino siamo ancora alla storia con i metodi di conservazione antichi, mentre la rubrica delle piante oggi si focalizza sul coreografico girasole. Per lo spazio che dedichiamo al maiale, oggi parliamo di un importante appuntamento programmato in mattinata a Porcia, mentre in quello della gastronomia avremo i requisiti che deve avere una polenta perfetta. In conclusione di puntata, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Anche l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia non è indenne ai cambiamenti climatici. Se ne è parlato ieri alla 50ª mostra regionale della mela a Pantianico, tra i relatori Andrea Cicogna dell'Osmer. Qual è la situazione? Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, intanto bisogna dire che i cambiamenti climatici sono già una realtà che interessa già oggi l'agricoltura, non è solo un qualcosa che arriverà, è un qualcosa che è già arrivato. Se ci limitiamo a guardare l'aspetto dell'irrigazione, possiamo già vedere come la nostra regione comincia a sentire già l'effetto dei cambiamenti climatici. Da un lato abbiamo le piogge che durante l'estate stanno diminuendo. Pensiamo a una località del Medio Friuli, a Udine, insomma, se negli anni 60, durante l'estate, da giugno ad agosto, piovevano 500 mm e le richieste irrigue delle colture erano basse, intorno ai 380, oggi la situazione è molto diversa. Oggi, nell'ultimo decennio, a fronte di piogge dell'ordine proprio di 350 mm, i consumi irrigui sono di 430-440, mancano almeno 100 mm d'acqua. 100 mm d'acqua che possiamo pensare siano almeno 30 o 20 irrigui. In questo mutato quadro di riferimento cambia anche la vegetazione. Forse non è ancora cambiata, ma potrebbe cambiare in maniera anche molto importante. Pensiamo che se l'attività dell'uomo saranno veramente molto impattanti e andremo verso un futuro che non ci auguriamo, di grande cambiamento climatico, di grande riscaldamento, qui in Friuli la temperatura a fine secolo durante l'estate potrebbe essere più alta di quasi 6 gradi. Quindi passeremo da 22 gradi a 28 gradi come temperatura media estiva. Allora intorno a noi cosa vedremo? Ancora il paesaggio floristico, ancora le piante che vediamo oggi? Probabilmente no. Probabilmente le piante spontanee non saranno la quercia, il castagno, ma magari delle piante che vediamo in Sud Italia, non so, per esempio un fico d'India. Quindi aprire la finestra e il tipo di verde intorno a noi sarà molto diverso. E in questo ambiente potrebbero arrivare anche altri ospiti, non sempre, stiamo parlando di insetti, di animali, non sempre benvenuti. Il problema degli insetti è che ovviamente si spostano molto, soprattutto a bordo dei nostri mezzi di trasporto. Un insetto può fare 3.000 km al giorno se ospitato dentro un aereo e quando arriva in Friuli, se trova un ambiente adatto, ovviamente può insediarsi. Naturalmente se è un insetto che viene diciamo dal sud del mondo, dalle zone equatoriali, se durante l'inverno fa freddo muore, ma se le condizioni di temperatura cambieranno, questi sgraditi ospiti potrebbero insediarsi anche se vengono per esempio dall'Africa, insomma. Per non parlare poi degli eventi atmosferici estremi. In questo il panorama che vediamo è quello che soprattutto durante l'estate le piogge intense potrebbero aumentare come frequenza oppure essere più intense. Per cui eventi come ci ricordiamo quello purtroppo famoso del Canale del Ferro di fine agosto, quando c'è stato questo enorme temporale che ha interessato appunto quella zona, vi ricordate la casa che cadeva nel fiume, purtroppo anche morti? Ebbene, questi eventi purtroppo potrebbero essere più frequenti. Come come sta il bio? Ci sono gli ultimi dati disponibili e ce li ha portati Cristina Micheloni. Siamo alla vendemmia, quindi vendemmiamo anche i dati sullo stato del bio italiano e friulano in questo contesto, cogliendo, come ormai siamo abituati a fare, l'opportunità della pubblicazione dell'aggiornamento SINAB. Il bio italico continua a crescere. A fine 2018 siamo arrivati a 80.000 operatori certificati e praticamente 2 milioni di ettari gestiti con il metodo del bio. Messo in prospettiva significa che dal 2010 a fine 2018 c'è stato un aumento di 76% delle superfici e del 2,6% rispetto al 2017, quindi 76% in 8 anni e 2,6% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda invece il numero di operatori, dal 2010 c'è stato un incremento del 66% e rispetto all'anno precedente del 4,2%, quindi continua a crescere, aumentano gli agricoltori, ma, e qui lo dico anche un per fortuna, aumentano anche quelli che poi trasformano, valorizzano e portano al consumatore tutto quello che è biologico, perché questo era uno dei problemi. C'erano diversi agricoltori che producevano in bio, però poi non trovavano chi valorizzava quello che veniva fuori dai loro campi, dalle loro stalle. Tutto bene dunque? Bene, non benissimo, se si può rispondere, e soprattutto io tenterei di rispondere a una domanda: è tanto o è poco sto bio? Secondo me adesso il bio italiano è il 15,5% della SAU. E tanto è poco, non lo so, di certo non è una nicchia, quindi tentiamo di ragionare in prospettiva. Sta crescendo anche negli altri paesi europei, tornando da noi e vedendo se tutto bene in Friuli. In Friuli anche il biologico cresce, i numeri del fine dell'anno scorso ci dicono che abbiamo raggiunto i 16.500 ettari, che vuol dire 7,1% della SAU, quindi siamo un po' più sotto rispetto alla media nazionale, ma abbiamo fatto dei balzi importanti, e 1.000 operatori, un più 13% rispetto all'anno scorso, quindi non è sicuramente poco. Il mercato re, cos'è che non ci piace allora tanto? Una certa convenzionalizzazione. Se noi guardiamo i dati di mercato, stanno crescendo soprattutto le vendite del bio nella grande distribuzione, dove molti dei nostri agricoltori allevatori fanno fatica a entrare, oppure se ci entrano devono entrarci con dei prezzi oggettivamente troppo bassi per consentire loro di fare il lavoro giusto, bene, ed avere una giusta remunerazione del loro lavoro. Comunque noi ci troveremo il 6 ottobre a Villa dei Claricini per la Biodomenica 2019. Ci sarà alla mattina proprio un momento di riflessione tra gli operatori friulani per capire cos'è il biologico nel 2020 e cosa vogliamo fare tutti assieme per farlo assomigliare un po' di più a quello che vorremmo fosse il bio. Nella scorsa puntata il professor Roberto Zironi, docente di enologia all'Università di Udine, per la rubrica Universo Vino ci aveva parlato delle prime tecniche di produzione. Oggi passa già alle tecniche di conservazione del vino nell'antichità. Abbiamo visto come il vino venisse ottenuto da fermentazione all'interno di questi contenitori di grandi dimensioni interrati. Interrato vuol dire anche mantenere una termoregolazione, in quanto la fermentazione produce calore e quindi questo il terreno serviva a dissipare il calore. La fermentazione e la conservazione in questi contenitori poteva durare anche molti mesi, fino ad avere una sorta, diciamo, di stabilizzazione naturale del prodotto, che una volta stabilizzato veniva trasferito in contenitori più piccole, anfore della capacità di circa una ventina di litri, che venivano conservate tappate, chiuse, quindi per garantire la conservazione del vino al riparo dall'ossigeno. Cosa molto interessante è che questi contenitori così antichi, gli Quiri Giorgiani, sono stati recentemente riportati, diciamo, all'attenzione della produzione enologica, ad esempio in alcuni produttori del Coglio piuttosto che del Carso Triestino, sia acquistando, diciamo, direttamente in Giorgia questi contenitori, che ancora oggi dopo millenni sono inalterati in termini di fattura, in termini di uso rispetto ad allora, sia con dei contenitori costruiti anche opportunamente in Italia, hanno riproposto queste antiche tecniche per arrivare a produrre quindi un vino che potremmo dire ancestrale, che viene comunemente commercializzato o conosciuto sotto il nome di Orange Wine. Che fine hanno fatto i palmenti? I palmenti sono stati mantenuti nella produzione dei vini, specialmente del sud Italia, sino alla fine dell'Ottocento. Praticamente inalterate queste platee di ottenimento del succo. Quel che è variato invece dopo l'epoca romana è che la fermentazione non avveniva più all'interno di otri, ma veniva all'interno di vasche basse, dove la temperatura veniva garantita sia per l'ampia superficie a contatto con l'aria, sia per i frequenti rimescolamenti che avvenivano all'interno di queste vasche. Mentre invece nel nord Italia, in epoca post-romana, si è diffuso l'uso del legno, per cui l'uva veniva pestata all'interno di sorta di mastelli di legno, dopodiché veniva trasferita all'interno di tini piuttosto che di botti per la fermentazione. Nel nord poi c'è anche il vantaggio che le cantine sono più fresche, quindi le temperature sicuramente sono più favorevoli. Cosa interessante è che oggi, ancora oggi, un vino molto famoso, il Porto, è di fatto prodotto all'interno degli stessi palmenti che possiamo far risalire in epoca, diciamo, molto molto antica e secondo una cultura, una tradizione proprio dei tempi molto molto antichi. Una delle piante più coreografiche che si vedono sempre più di frequente anche nei campi della nostra regione è il girasole, di cui ci parla oggi Antonino Danelutto. Come per tutte le piante importate in Europa dopo la scoperta dell'America, anche per il girasole dovette passare molto tempo prima che gli fosse riconosciuta la sua importanza nel settore alimentare. Venne introdotto in Spagna dal Perù nel 1510, da lì passò in Francia e poi in quasi tutta l'Europa centro-meridionale. Per parecchi anni venne coltivato nei giardini come pianta ornamentale o negli orti per semplice uso familiare. Nel Settecento si cominciò ad utilizzarlo per la produzione di olio alimentare, destinato però al piccolo commercio locale, e si dovette attendere il 1820 quando nella Russia meridionale entrò in funzione il primo impianto industriale per l'estrazione dell'olio. Il girasole, allora, uscì dagli orti e la sua coltivazione si diffuse praticamente in tutta Europa. Attualmente nel vecchio mondo si ha il 70% della produzione mondiale. Il girasole, nome scientifico Helianthus annus, in friulano girasol o girasol, è una pianta annua alta anche più di 2 metri, con fusto eretto, grosso e ricoperto da brevi setole. Le foglie sono grandi, picciolate, alterne, di forma triangolare e a margine dentato. Il più delle volte ha un solo capolino del diametro di oltre una decina di centimetri. Esternamente a fiori ligulati sterili gialli, avente il compito di attirare gli insetti impollinatori, mentre i numerosissimi fiori centrali disposti secondo 2 spirali, una in senso orario ed un'altra in senso antiorario, sono tubulosi, bisessuali, dal colore vario, solitamente arancione che sfuma al bruno. Il frutto è un achenio. Finché il girasole è giovane, durante il giorno è soggetto al fenomeno dell'eliotropismo, cioè l'infiorescenza ancora in boccio tende a seguire il movimento del sole orientandosi nella direzione dei suoi raggi. A maturità, invece, resta sempre rivolta ad est. I semi, ricchi di acidi grassi insaturi e sali minerali, hanno varie utilizzazioni. In cucina vengono impiegati nel pane e nelle insalate. Tostati e un po' salati si gustano volentieri. Fanno pure parte di miscele di integratori alimentari. L'olio estratto dai semi può servire da condimento per insalate, ma più comunemente lo si usa per friggere. In cosmesi è ritenuto valido contro le rughe e l'invecchiamento della pelle. Inoltre, con l'olio di girasole, come con quello di colza, si può produrre un combustibile rinnovabile, il biodiesel. La resa è di quasi 1 litro ogni 10 metri quadrati di terreno coltivato, che è destinato prevalentemente agli impianti di riscaldamento e, per autotrazione, alle imprese di trasporto. Un salvadanaio vivente, così è definito il maiale nel titolo della tavola rotonda organizzata oggi a Porcia, e su queste considerazioni fa le sue valutazioni Adriano Del Fabbro per la rubrica del maiale. Siamo alla terza edizione di Pur Lilium, sapori e note per le vie del borgo. Ogni anno il comune decide di approfondire un tema legato all'agricoltura. Quest'anno hanno pensato di approfondire il tema del maiale, soprattutto nell'ambito del suo ruolo, del ruolo di questo animale nell'economia delle famiglie di un tempo, ma forse anche di molte famiglie di oggi. Quindi il tema di questo approfondimento è proprio un salvadanaio vivente, maiale, norcini e salumi tra storia, tradizione e modernità. Quindi su questo tema ci sarà un approfondimento al casello di guardia vicino al municipio. A questa tavola rotonda parteciperanno Renato Barret, che è un agronomo e che racconterà l'evoluzione del maiale nel tempo, praticamente dal cinghiale al maiale di oggi. Renzo Bettin, norcino, storico norcino della zona Pulcitara, attualmente in pensione, però come si sa i norcini operano sempre fino a quando hanno la possibilità di muoversi, quindi racconterà proprio il suo lavoro lavoro come si svolgeva qualche anno fa e come si svolge tuttora coi cambiamenti del tempo. E poi ci sarà Aurelio Moretto, che è un artigiano salumiere della zona e che approfondirà il tema del suino antico, perché noi in Italia alleviamo questo maiale che pesa oltre un quintale o molte volte anche oltre due quintali, mentre negli altri paesi europei si allevano maiali diciamo più leggeri per fare altre lavorazioni. Quindi la salumeria caratteristica della nostra regione, della nostra area, è determinata anche dal tipo di animale che si alleva. Perché salvadanaio? Perché appunto in molte famiglie si aspettava l'uccisione del maiale proprio per intanto mangiare qualche cosa subito, la carne, le frattaglie, ma soprattutto mettere da parte la carne in conservazione dentro i salumi per poterli consumare durante l'arco dell'anno, perché assieme al pollame, al coniglio, alle uova, il maiale dava una serie di prodotti che durante tutto l'anno, poi ricordiamo che negli eventi proprio del lavoro contadino, la trebbiatura, si mangiava lo soccollo, alla vendemmia la soppressa, cioè quando i prodotti avevano la giusta stagionatura venivano consumati proprio nelle occasioni importanti delle famiglie, e dunque era importantissimo, senza maiale era dura. Chi più chi meno bene, tutti sanno cucinare una polenta, ma quando è alla perfezione? Ce lo dice oggi Roberto Zottar. Comincia a far freddo e si riscoprono i cibi caldi e grassi di conforto, sempre accompagnati dalla tradizionale polenta. Questa in carne, in un tempo di grande povertà, era consumata da sola, come ci ricorda Piero Adami, mentre oggi accompagna salumi, pensiamo alla soppressa o al salam talazet, formaggi, salsicce, coste, selvaggina, pesci e perfino oggi foie gras e tartufi. Una volta si avanzava, costituiva l'unico piatto della sera con latte caldo, zucchero e a piacimento cannella. La polenta è un alimento la cui storia si perde nella nota dei tempi. Era già presente ai tempi dei romani, realizzata però con fave, orzo, spelta, saggina, grano saraceno o farro. Nel recitario di Apicio, oltre alla friulana brovada, troviamo anche delle pultes giuliane, polente di Giulio, giuliane, polente condite, cioè polente quinzade, che la contessa Perusini attribuisce alle nostre zone. Preparare una polenta a regola d'arte e semplice è una questione di proporzioni e di tempi, di farina, di pentola e di sale. In una vita sempre più frenetica, la costante ricerca di scorciatoie per accorciare i tempi di tutto, anche delle ricette, dobbiamo ricordare che alcune piante della tradizione meritano al contrario di essere preparati come facevano le nostre nonne, con calma e passione. È il caso della polenta, che ha bisogno di pazienza per cuocere perché se cotta a lungo è più digeribile e gustosa. Lasciate quindi da parte le farine precotte e polente già pronte e in un paiolo rigorosamente di rame, quando l'acqua salata bolle, anzi un attimo prima, versate a pioggia la farina dopo aver creato un vortice nell'acqua per non far grumi con la mazze de polente, il mestolo di legno di faggio. Il segreto è quello di mescolare lentamente, a lungo, mentre pian piano si addensa e cuoce. Resistete per almeno un'ora. In Istria c'è il detto: meglio che la polenta boi in caldiera che non in panza della messera. E la polenta è cotta quando non attacca più al mescul. Infatti il proverbio dice: non la seccotta se l'attacca, la seccotta se non l'attacca. Se la cuocete sul fogolar, fate fare l'ultime sflamade, cioè l'ultima fiammata, perché si stacchi bene dal fondo del paiolo nel scodellarla sul tagliere. Secondo Piero Adami, la polenta è tradizionalmente molto consistente in montagna e in Carnia, e man mano che si scende in pianura, la polenta preferita diventa più tenera. Trattatevi bene, non scegliete una farina qualunque, usate una bramata di mais locale come la Blave di Mortean o una di mais friulano bianco perla, più delicata e dal profumo meno deciso, per accompagnarla con pesce o seppie. Concedersi il lusso di andare a occhio è consentito soltanto ai veterani della polenta. Per tutti gli altri le dosi sono 4 litri di acqua per ogni chilo di farina, dosi medie, tenendo presente che più la farina è grezza più assorbirà l'acqua. Ricordate di perpetuare la tradizione di tagliarla con il filo, dopo aver fatto con questo una croce. Accompagnate con un buon touch e buon appetito. E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,60 e 15,80 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo peso specifico 60,63 si quota tra 15,30 e 15,80 e il frumento tra 16,80 e 17,10. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 1 euro e il frumento di 2,20 centesimi il quintale. Mercato sofferente nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità, pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa, e quelle di seconda tra 1,80 e 2,40. Fiacco anche quello dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,40 e 6,80 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 1,60 e 2 euro e i bruni tra 1,70 e 1,90. Toni con tendenze diversificate invece nel comparto suinicolo, con il valore dei lattonzoli di 30 kg franco partenza in calo fissato a 2,58 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello in aumento a 1,52. Domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco in aumento compreso tra 5,70 e 6,10 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,95 e 7,30, con marchio di qualità tra 7,95 e 8,30, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Con il previsore dell'ARPA, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Settembre si sta concludendo con temperature medie di circa un grado sopra il normale, molte giornate con caratteristiche ancora tardo estive, solo due incursioni di aria fresca fra l'8 e il 9 e fra il 20 e il 22, e molte le giornate soleggiate, con maggiore umidità e cielo nuvoloso in questi ultimi giorni. La temperatura del Mar Mediterraneo è ancora piuttosto alta, 21-22 gradi sull'Alto Adriatico, fra 24 e 26 sulle altre zone. E questo ha provocato, durante il passaggio dei fronti, ancora piogge di tipo temporalesco, condizione che si protrarrà anche nel prossimo mese di ottobre, con previsioni spesso difficili nella localizzazione e nella tempistica delle piogge sulla nostra regione. In questi giorni, fino a martedì, avremo correnti occidentali abbastanza secche in quota, da sud-ovest e piuttosto umide invece negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Il tempo sarà caratterizzato da cielo nuvoloso, con nuvolosità più consistente martedì, possibili piogge sparse in genere deboli lunedì, moderate localmente abbondanti martedì, sempre comunque più probabili verso est, specie sulle prealpi Giulie. Avremo ancora temperature leggermente sopra la media del periodo. Mercoledì è atteso un fronte atlantico che provocherà piogge anche abbondanti e temporalesche, ma nel pomeriggio avremo un miglioramento con delle schiarite a partire dalla zona montana. E sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora anche sostenuta. Giovedì più fresco al mattino, anche freddo sui monti, ma con bel tempo. Verso la fine della settimana sembra che l'anticiclone di origine tropicale torni a invadere il Mediterraneo con tempo stabile e temperature in decisa ripresa anche sulla regione. Pensiamo però che contemporaneamente sulle isole britanniche probabilmente imperverseranno venti forti e piogge intense, effetti dell'uragano Lorenzo che è previsto in movimento sull'oceano Atlantico verso l'Europa settentrionale. L'atmosfera in autunno è normalmente molto dinamica ed è quindi fondamentale seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni, visti i possibili repentini cambiamenti delle masse d'aria in transito. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. San Michele, la brosa perduta il ciel. A San Michele, il 29 settembre, la brina ovunque. Erano altri anni e altri climi. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.